L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Ed eccoci qua, io sono Achille Corea, questa è Radio 24 e questa è la prima puntata dell'Italia vista dallo spazio. Un nuovo programma che comincia con una domanda, che è la stessa domanda che io mi facevo venerdì sera mentre stavo guardando la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra. Guardavo quello spettacolo grandioso e infinito in cui gli inglesi hanno infilato dentro secoli di storia, di cultura e loro immaginario, da Mary Poppins ai Beatles, da Shakespeare a Mr. Bean, e non potevo fare a meno di chiedermi, ma se l'avessimo dovuta fare noi una cosa del genere, che cosa ci avremmo messo? Quali storie, quali immagini, quali personaggi avremmo scelto per mostrare al mondo quello che siamo, ma soprattutto quello che vorremmo essere? Mi facevo questa domanda perché è la stessa domanda che ci faremo tutti i giorni qui all'Italia vista dallo spazio, cercando 24 cose da salvare. È un po' un piccolo esercizio da fare in momenti di crisi, per non buttare tutto e per non tenere tutto. Ogni giorno affronteremo un argomento particolare dell'Italia, dell'italianità, e ogni giorno sceglieremo insieme a voi, insieme ai nostri ospiti, ma soprattutto insieme a voi, un oggetto da scegliere, salvare e lanciare nello spazio per dire a tutti: ecco, questo siamo. Da cosa cominciamo? Questa è la seconda domanda. Noi ci abbiamo pensato un po' su e abbiamo deciso di iniziare da un nostro talento e da una nostra ossessione: la cucina italiana. Cari amici, buongiorno. Oggi parliamo di come riusciamo a fare un buon purè di patate. Ho mescolato gli spaghetti avanzati con l'uovo e il parmigiano grattugiato. Riso, oro e zafferano, uno dei miei piatti storici. Alla fine viene deposto questo oro, che è un oro impalpabile, alimentare, anzi si dice che faccia bene anche per i dolori reumatici, non è che si possa fare la cura così. E quindi l'Italia vista dallo spazio comincia da qui, perché questi siamo. Noi siamo italiani, siamo un popolo di buon gustai, di ristoratori, di chef e aspiranti chef. Noi italiani conosciamo sempre un posto dove si mangia bene e si spende poco, e abbiamo sempre il segreto per una ricetta di un piatto che, come lo facciamo noi, non viene a nessuno. Quindi chiamateci 800 24 00 24. Oggi abbiamo un solo posto sulla nostra navicella virtuale spaziale che manderemo nello spazio. Io comincio a segnare un primo voto, che è quello di un tale Mario Monti, presidente del Consiglio, che ha rilasciato un'intervista alla Rossiskaya Gazzetta, il giornale russo, in cui ha detto che per lui un simbolo dell'Italia è il panettone, perché essendo stato inventato per errore è simbolo della capacità di immaginazione italiana, ma anche di un carattere alquanto caotico che porta a risultati eccellenti. Questa è la scelta di Mario Monti. Io me la segno. La vostra qual è? 800 24 00 24. Il piatto italiano da salvare. E cominciamo allora a sentire un po' di personaggi che possono darci dei suggerimenti rispetto alle cose da salvare. Partiamo da una persona che ogni giorno fa entrare gli italiani nella sua casa e cucina, cucina, cucina, piatti che però ti fanno venire voglia di cucinare. E parliamo di Benedetta Parodi, benvenuta su Radio 24. Grazie, buongiorno a tutti. Voce un po' giù oggi, mannaggia. No, ti chiediamo poche cose, anzi te ne chiediamo fondamentalmente, tu lo sai, una sola, che per una persona che ogni giorno cucina e ha scritto più libri di cucina, come ad esempio il più recente Menù di Benedetta, dove ce ne sono diversi, sappiamo che chiedere un piatto solo può essere, insomma, una scelta sofferta. Però noi abbiamo un posto in questa navicella. Che cosa scegli? Che non è mica così difficile. Ah. Nel senso che poi alla fine anche i cuochi, no, che sono abituati ogni volta a inventarsi un piatto diverso, e io nel mio mestiere faccio la stessa cosa, alla fine cercano la semplicità. Quindi per me quello che deve essere salvato in assoluto è il piatto di spaghetti al pomodoro. Perché quello... In Italia siamo gli unici noi a farlo, perché se vai all'estero non riesci a mangiarlo come si deve, e non è neanche così facile da fare, e secondo me è la cosa più buona che esista, quella che anche se ti ha finito di mangiare una forchettata gliela dai lo stesso. Quindi io salverei la cosa più classica che ci rappresenta meglio, insomma. Tra l'altro anche la cosa che poi ognuno crede di saper fare meglio, essendo poi così semplice. Secondo me è anche moltissime interpretazioni, perché anche quando dici faccio gli spaghetti al pomodoro, ok, quali fai? Quelli con uno spicchio d'aglio e i pomodorini freschi tagliati a metà, saltati un attimo, oppure fai quelli con la pomarola, quella che cuoce un'ora e che quindi diventa bella saporita, un po' spessa, leggermente oligliosa, che è buona anche quella, oppure che ne so, sai, ce ne sono tanti tipi, quella napoletana che ha dentro il pezzo di carne che si insaporisce, ha voglia quanti ce ne sono, quindi dipende anche dall'umore che hai, il tipo di pasta che al pomodoro che vuoi mangiare, no? È un piatto elastico, diciamo, flessibile, esatto. Liquido, come dicono i sociologi oggi. Vedi, si può sempre dire qualcosa di elevato. All'arrabbiata, quindi senza parmigiano, oppure qui però, col parmigiano. Qui però ci stiamo allargando, qui ci stiamo trovando dei trucchetti, tra un po' ci mettiamo un pezzetto di pancetta, un'oliva e diventano 5 ricette insieme. Capito? Senti, volevo chiedere una cosa. Ormai nel panorama, ma anche se tu, diciamo la verità, sei un po', insomma, un best in class dei programmi di cucina e dei libri di cucina, almeno come popolarità, c'è ormai una varietà pazzesca, si cucina la qualunque, sì. e diciamo ci sono anche programmi di cucina in cui io vedo fare delle ricette incredibili che poi non ho idea nemmeno di, cioè se me le portassero già fatte avrei anche paura ad approcciarle, capito, come la scena di Pretty Woman, sbagli la forchetta, esatto. Andava preso col cucchiaio. Qual è la tua posizione rispetto a un tipo di cucina più elaborata che ormai anche in Italia va? Ma guarda, secondo me ci sta tutto, nel senso che c'è la voglia di imparare i trucchi per cucinare velocemente ma cose varie e divertenti, un po' come faccio io, ma per chi magari ama cucinare c'è anche il desiderio di sperimentare piatti più difficili e quindi magari a volte vedere un grande cuoco che ti insegna a fare una roba che poi magari tu non farai mai a casa, ma ti svela il suo segreto per il suo piatto forte, può essere divertente, da vedere come uno show, capito? Più che da imitare anche poi a casa. Non la fa. Io anche se io a volte ho il dubbio quando ti guardo che poi tu nel segreto della tua casa, quando nessuno ti vede, in realtà cucini roba complicatissima. No, no, io guarda zero, no, assolutamente. Io veramente faccio le cose che faccio in trasmissione. C'è qualcosa che invece della cucina attuale, di quello che vedi in giro, proprio non ti piace? Una cosa che, diciamo, se dovessi prendere solo un piatto al volo da infilare in questa astronave, comunque non lo considereresti proprio? Allora, io non amo i piatti salati fatti con la panna, ho magari qualche nostalgico ricordo degli anni 80, però in generale dove metti la panna appiattisci tutti i gusti, no? Allora quando anche mi suggeriscono dei piatti dove incomincio a mettere gran cucchiaiate di panna, io passo oltre. Allora sì, via i piatti con la panna che fanno subito giubbotto con le spalline, diciamo la verità. Sì, no, sì. E pettinatura con la lacca. Va bene, Benedetta, grazie, ti lasciamo alle tue vacanze. Se non sbaglio, sì, come no, senz'altro. Cucini, grazie. In vacanza? Guarda, alla grande, ieri ho fatto tutto mai. Un guazzetto di vongole, un brodetto di pescatrice, mi diverto da matti. Non ti fermi tempo. Mai. Grazie Benedetta, grazie, alla prossima. Certo. Ciao. Una cosa bella del parlare del cibo e della cucina è che non devi per forza parlarne solo con addetti ai lavori professionisti, ma ci sono un sacco di appassionati. Per questo io vi invito a telefonarci all'800 24 00 24 e per questo io ho chiamato per parlare di cucina anche un grande attore doppiatore che è Francesco Pannofino. Ben trovati, grazie. Allora, noi ti abbiamo chiamato in questa prima puntata dell'Italia vista dallo spazio perché tu, insomma, hai fatto tante cose in televisione, però ti abbiamo visto almeno in 2-3 programmi spignattare ai fornelli e te la cavi parecchio. Beh, insomma, diciamo che non sono un grande raffinato chef, però mi diverto, insomma, perché in cucina comunque ci si rilassa, si ha un rapporto col cibo, io sono abbastanza affettuoso, quindi io sostengo che se ci metti l'amore le pietanze vengono bene. detto questo, non è che mi picco di essere un grande cuoco, intendiamoci. No, però ci incuriosiva molto, visto insomma le tue esperienze, visto anche la tua provenienza, perché tu comunque insomma mischi in te un po' di zone diverse dell'Italia, sapere qual è, anche se insomma so che è una domanda impegnativa, il piatto che salveresti, dovendo proprio scegliere uno, la ricetta che salveresti dalla tradizione italiana? Beh, le orecchiette al sugo di carne sicuramente sono, che le fa mia madre splendidamente, insomma, se dovessi salvare un piatto, allora a quel punto salvo quello. Ecco, c'è qualcosa comunque di affettivo, di tradizionale, di familiare in questa scelta? Beh sì, perché mia madre le fa in modo straordinario, le fa proprio a mano, col dito, quello io non lo so fare, le dovrei comprare già fatte. Quindi... Però poi il trucco è fare il sugo con 5-6 qualità di carne, perché viene più saporito. Usandoti magari come testimonial delle orecchiette, sì, magari incoraggeremo ascoltatori e ascoltatrici di Radio 24 a imparare a farle e salveremo questa ricetta. Invece permettimi di chiederti un'altra cosa, c'è qualcosa che invece della cucina italiana di questo momento ti piace di meno? Guarda, io non sono un appassionato, c'è una cosa che non mi piace tanto, mi dispiace perché molti invece ne vanno ghiotti, e sono le melanzane. Io non riesco ad appassionarmi alle melanzane, cioè me le mangio se me le danno, ma in qualsiasi modo vengono fatte la parmigiana, cioè quando vado in Sicilia, per dire, mi fanno questi pranzi tutto a base di melanzane e io faccio finta di essere felice, in realtà non è che ne vado molto. Prendiamola più anche come una comunicazione, siciliani all'ascolto, che dovreste invitare Pannofino in futuro. Scansatele. No, ci sono stato anche ultimamente, ma adesso non è che le odio, per carità, me le mangio, non è che se... però ecco, se dovessi non le scelgo, ecco, questo è quanto, insomma, non le scelgo, non ne vado ghiotto, non è che se mi presentano un piatto di melanzane faccio che meraviglia, ecco, questo no. Francesco, io ti ringrazio di essere stato, prego, nostro supporter, e penso che molti ascoltatori saranno con te e altri magari chiameranno per protestare, sì, no, da fan delle melanzane. Ma che sia chiaro, non ce l'ho né con la Sicilia né con i siciliani, che adoro sia la terra che chi ci abita, non è questione di ma di a tavola territorio. Dai, a tavola è anche giusto essere un minimo campanilista, ecco, un minimo. Me l'hai chiesto, io ti rispondo. Va bene. Grazie a Francesco Pannofino. Grazie, buon lavoro, ciao. E allora, Francesco Pannofino, nonostante abbia interpretato recentemente il raffinato detective chef Nero Wolf, alla fine ha scelto con gli occhi del cuore, come direbbe lui stesso. L'Italia vista dallo spazio. Posto numero 1, in attesa di assegnazione. Eccoci di nuovo qua, l'Italia vista dallo spazio, prima puntata. Questa che avete sentito è la voce della nostra app, che noi da veri cinefili abbiamo chiamato App 9000, pur con tutto quello che ne può conseguire per chi ha visto 2001 Odissea nello spazio. È l'app che ci ricorda che noi abbiamo un posto e un solo posto da assegnare per quest'oggi. Oggi parliamo di cucina, domani cambiamo argomento e oggi dobbiamo assolutamente capire che piatto salviamo. E siccome è la prima puntata, vi ricordo in che modo potete votare. Abbiamo Facebook, abbiamo una pagina su Facebook, cercate Italia vista dallo spazio. Noi già questa mattina abbiamo lanciato l'argomento e già stanno votando. Io non so come dirlo a Pannofino, ma c'è già un voto melanzana alla parmigiana, un altro voto parmigiana di melanzane, perché dicono che a Napoli la chiamano così in un modo diverso. E Antonio, sempre su Facebook, ha scritto: qualsiasi cosa con le melanzane, evidente simbolo dell'esistenza di qualcosa di ultraterreno. Su Twitter, avete Twitter? Noi abbiamo anche Twitter, abbiamo un hashtag, se volete twittare scrivete cancelletto dallo spazio. Già qui vedo dei voti che leggerò tra poco, ma fatemi sentire un po' di telefonate. 800 24 00 24. Davide da Torino, benvenuto. Ciao Davide, sei il primo ascoltatore che vota per l'Italia vista dallo spazio, prima puntata, prenditi la responsabilità. Cosa votiamo? Beh, io da buon piemontese voglio salvare la bagna cauda, soprattutto perché secondo me rappresenta molto bene l'italianità media, mediocre. Veniva fatta con terra non di mare, come il Piemonte, era tutti piatti a base di acciughe, perché veniva trafficato di contrabbando il sale fra Italia e Francia, e per nasconderlo nelle botti veniva nascosto fra due strati di acciughe. Che quindi è il simbolo della nostra capacità di trafugare della roba. Di vivere in legalità quando si mangia. Alle tasse, tutto, io ti ringrazio perché tu, tra l'altro, non sei nostalgico, hai 34 anni, mi scrivono qua, quindi insomma. Sì, faccio il cuoco. Ah, vabbè, quindi sì. Ti ringrazio anche per la tua capacità di astrarti, perché non è un piatto tipicamente estivo. Come ringrazio il primo SMS arrivato al 349-238-6666 perché ha votato lo stinco di maiale con la polenta. Secondo me, ricordarsi il 30 luglio che ti piace lo stinco di maiale con la polenta è veramente già questo, merita una menzione. Tiziana da Perugia, pronto? Buonasera. Piatto da salvare perché? Allora, il piatto da salvare è la torta al pesto. Io sono perugina, quindi la torta al pesto è tipica di Perugia. Io non so cosa sia, lo confesso. Ecco, è diciamo una piadina un pochino più alta, la crescia. Io non so adesso tu come la puoi conoscere. È comunque un qualche cosa che è fatto con acqua e farina. Quindi è un piatto semplicissimo, cotto su una... su un testo, appunto, che era una volta era una pietra e dove venivano appoggiate queste focacce, no? E poi venivano farcite. Beh, venivano utilizzate nell'antichità come piatti, cioè sopra questo impasto, tipo una pizza. Vabbè, no, lo prendiamo anche per aprire, perché poi la pizza, arrivano i voti per la pizza. Non è una pizza, no, perché viene cotta proprio sopra la brace. Viene cotta sopra la brace e poi viene farcita con prosciutto o con carne o con verdure. Quindi è un piatto semplicissimo, riproducibile anche nello spazio, basta avere acqua e farina. Ma l'acqua, ti sembra facile l'acqua nello spazio? Va bene. Ecco, io propongo questo anche perché è della mia regione, insomma, va bene, quindi è un Tiziana, piatto tipico della mia regione. Ti ringraziamo, accettiamo tutte queste questioni anche geografiche, anche se poi cerchiamo, mandiamo dei piatti che poi se scendono questi alieni dallo spazio li trovano, però io questa già me la segno, adesso la voglio assolutamente assaggiare. Io vi invito a chiamare all'800240024 anche perché per noi è molto importante sentirvi, e gli ospiti che noi contattiamo li contattiamo anche per potervi dare degli stimoli e potervi insomma dare anche dei suggerimenti, come ad esempio io adesso mi aspetto dei suggerimenti notevoli da Nicola Farinetti, che è il direttore di Italy Roma. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, intanto complimenti per Italy Roma, ci sono venuto l'altro giorno, c'è un sacco di gente, quindi il periodo è quello che è, ma il cibo è comunque una cosa centrale per gli italiani. Assolutamente sì, soprattutto il cibo di qualità. E io, che se non ho letto male, tu sei direttore anche, che sei molto giovane, 28 anni, ma sei direttore anche di Italy New York? Sì, diciamo che io mi occupo degli start-up, quindi vado nei luoghi, apro i negozi, mi fermo un anno e mezzo e poi ricomincio, quindi non posso essere direttore di tutti naturalmente, ma cerco di metterli in piedi e di farli partire. Allora, in questo momento in cui diciamo il tuo impegno è lo store di Roma e quindi diciamo quello che un po' rappresenta anche il fulcro dell'italianità, dentro Italy c'è il cibo da tutte le parti dell'Italia, ma la nostra domanda è stringente: qual è il piatto che scegli, la ricetta che scegli come simbolo? Io in realtà più che un piatto è un prodotto, vado per la mozzarella di bufala. Però la dobbiamo acconciare un pochino, come la facciamo? Ma perché comunque è un piatto, nel senso che se la si va giù a mangiarla vicino a Salerno, a Caserta, per loro è un piatto. Prepararla è come preparare un piatto, bisogna prendere il latte, bisogna farlo coagulare, bisogna farlo diventare una cagliata, poi spezzarlo di nuovo, poi manipolarlo, poi raffreddarlo, poi salarlo, poi finalmente lo si può mangiare. Ed è una base di tante cose che voi avete detto, no? La pizza, questo e quell'altro. In che versione la preferisci? Io, che però sono piemontese, quindi i campani normalmente si offendono sempre, ci metto sale e olio. Ma un pizzico di pomodoro, però... È una cosa molto bella, perché trovo che la mozzarella di bufala sia una di quelle cose che quando è buonissima siamo tutti in grado di rendercene conto. Stupisce chiunque, ma ciò nonostante molta gente non sa come si fa. Beh, insomma, infatti so che voi da Italy la fate proprio davanti agli occhi delle persone, se non sbaglio, no? Quella è stata proprio la scelta, no? Di far vedere che cosa vuol dire produrre un formaggio. Senti Nicola, io devo chiederti anche, noi diciamo a tutti, diciamo lo spirito di questo programma è anche che se qualcosa la porti, vuol dire che qualcosa riconosci che forse la puoi tranquillamente abbandonare. Di tutta la cucina italiana, di tutto, diciamo, l'ampio mondo della ristorazione e della gastronomia, che cos'è che ti convince di meno? Come piatto proprio? Sì, come piatto, come costume, come preparazione. A me come costume la cosa che convince di meno sono tutti gli oli aromatizzati che abbiamo ogni tanto. Tutti, scusa? Quindi gli oli, gli oli aromatizzati, sì. Quindi l'olio con il tartufo dentro, l'olio con... È una cosa che mi ha sempre coinvolto e convinto poco, e purtroppo è una cosa che passa moltissimo all'estero, visto io. E quindi quella è una cosa che mi piacerebbe eliminare. Ok, senti, l'ultima cosa che ti chiedo, visto che appunto ti sei occupato anche di New York, in Italia noi siamo ancora pizza e poco altro o c'è qualcos'altro? Ci conoscono per più cose? No, ci conoscono per molte più cose, soprattutto per la grande biodiversità che il nostro paese ha da offrire. È fondamentale, è chiaro, che la pizza sia veramente la cosa che conoscono di più, che imitano, ci copiano, ci sbagliano, la fanno molto buona anche loro, perché la fanno anche buona loro, ma la nostra cucina sta prendendo sopravvento in tutto il mondo a 360 gradi per un fattore molto importante che è replicabile. I francesi hanno stufato, la gente non ha più voglia, perché si rendono conto che poi a casa non possono farlo. Invece la cucina italiana è replicabile, piace, si può imparare, anche non difficilmente, ed è semplice alla fine. Bene, grazie a Nicola Farinetti, buon lavoro per Italy, e noi raccogliamo anche tutte le sue suoi suggerimenti e continuiamo con i nostri ascoltatori. Io mi sposto velocemente da Facebook, da Twitter. Vi ricordo, qui su Twitter con l'hashtag cancelletto dallo spazio va parecchio lo spaghetto al pomodoro, non so se è l'influenza di Benedetta Parodi, ma vedo che va, mentre via SMS al 349-238-6666. E mi scrivono anche delle cose che io sinceramente non so cosa sia, tipo la miola per la peara da abbinare con il lesso. Cioè, io devo dire che adesso esco da qui e comincio a googolare come un matto. 800 24 0024 Paolo da Monza. Sì, buongiorno. Che cosa scegliamo, Paolo? Io salverai le polpette. Ah, le polpette, le sì. Le polpette... Ti porti qualsiasi cosa e riescono, e in più meglio di te nessuno le sa fare, per cui mi sembra che sia rappresentativo di tutti gli italiani. Le polpette per te sono proprio una cosa italiana? Sì, sì, credo di sì. Di casa più che italiana, proprio di casa. Quello è vero, in realtà mi fa venire in mente, e intanto grazie a Paolo, mi fa venire in mente che poi forse le polpette sono anche sovraesposte all'estero. C'era un film che si chiama Piovono polpette, in cui come piatto italiano facevano questi spaghetti pieni di polpette. Io non li ho mai visti in Italia, gli spaghetti strapieni di polpette in quel modo. Probabilmente gli americani pensano che quello sia il nostro tipo di cucina. Allora, io diciamo, noi non abbiamo poi moltissimo tempo, quindi tra un po' vi spiegherò anche in che modo si continua a votare. Vi ricordo che noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Italia vista dallo spazio, e qui ci sono già parecchi suggerimenti. Io ve li dico: la pasta alla genovese, ci sono anche suggerimenti in negativo. C'è gente che scrive basta con le quiche, che effettivamente sono le torte rustiche, ma effettivamente insomma è una preparazione forse modaiola. Abbiamo tempo per un'ultima telefonata? Giuseppe da Napoli, pronto? Pronto. Giuseppe, cosa ci consigli? Allora, un piatto pugliese, anche se sono napoletano, fave e cicoria. Ah, vabbè, non è una preparazione, però insomma bisogna mettere insieme. Sì, è una cosa semplicissima, nella linea che diceva Benedetta Parodi, e questo anche per, come dire, salvare due elementi della natura. Le fave vanno semplicemente cotte fino a farle diventare una purea, la cicoria va lessata un po' d'olio, la stufata, e quindi ci sono solo due elementi, un condimento che è l'olio d'oliva e un profumo che è l'aglio. Va bene, io ti ringrazio, noi dobbiamo chiudere qui, vi spiego come funziona, noi non chiudiamo i voti fino a domani, noi parliamo di un altro argomento, ma intanto su Facebook e su Twitter e via mail potete continuare a votare il piatto da salvare. Ringrazio Alessandro Chiappini e Antonella Migliaccio, a domani da Achille Corea. Posto numero 1, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a Italia Vista dallo Spazio @radio24.it.